mi sono stretto il braccio destro, ma non ho fatto il braccio destro, ho fatto una strettura dietro, no, di me lo metto, dopo che me l'ha fatto, gli ho fatto e finito a mette, no, mi fa, non siamo riusciti a fare, non siete riusciti a prendere, sono ancora più spaventato, mi gira, mi ha fatto vedere lì, te ne ho preso due fracture, non mi dico come ha bizzato già, cioè, il muscolo del coso, come si chiama, del braccio, indolenti totalmente ho stretto, ma tanto mi avrei mai, talmente mi sono stretto, la gente su Marco che me l'ha cavato l'usare. È una fobia, Roberto, come tutte le cose, non c'è un cognetto che ha la fobia per gli animali. Da piccolo ha moscicato un cane nel sedere quando era piccolino e ha la fobia, non può, cioè quando viene a casa a pranzo sta sempre dentiti che passano, che poi non lo cerca nemmeno, passa lì per andare a mangiare e cose. Se lo vede passare si alza in piedi, si alza dalla sedia subito, ha paura, una paura tremenda. Per gli insetti, per certe cose, molta gente hanno paura, ragni, cavallette, bussoli, scarafaggi, dipende dalle persone. Ma questo non è un insetto, è un gaga. Secondo me riprendo io l'arma, ragazzo. Non scendere dall'ambiente, qua. Vi saluto, un saluto in particolare a tutti. Ciao Gianni, Roberto, Natalino, Parraglico, Falchetto e tutti i ragazzi di Bucco che vi do la coscia. Dai, ce la riascoltiamo le migliori, buona serata e buona continuazione. Ciao, ciao, ciao. Ciao Massimiliano, stavi bene, buona serata, avanti Natalino. Ciao Massimiliano, buon proseguo, buon tutto, vai, avanti Robby. E a ciao Massimiliano, senti fare il prossimo, dai, avanti con te. Ciao Massimiliano, ben sentito alle prossime, ciao. Che Baraglico, avanti. Ma Baraglico, come c'è il microfono normale? Non c'è ecco. Ah, già va bene comunque lo stesso, già va bene lo stesso. Ti stavo chiedendo perché non si sentiva l'eco. Caraga, vabbè, è una questione di fobie proprio. Io per dire soffro di coso, ho paura delle alture, di tutte queste cose qua, di vertigini. Ho paura proprio delle alture, se io mi metto per dire sono in una terrazza per piazzare un'antenna e guardo magari quando metto il piatto e vedo giù che c'è il vuoto mi spavento. E dipende, già ne conoscevo uno, un amico mio, che ha cambiato d'errore lì, siamo saliti su quel tetto, poi lui aveva vergogna a dirmelo che aveva problemi di vertigine. Siamo saliti su un tetto di quei tetti a tegole e c'è una specie di corrimano, stretto stretto, di cade di un vito diventa bianco, proprio si è spaventerolizzato, non si muoveva, proprio no, ho paura, non riusciva più a muoversi, spaventatissimo. Io sono salito sul tetto di Massimiliano quando abbiamo piazzato l'antenna. Avevo paura a scendere, questa avendo una paura allucinante, però dovevo vincere perché la dovevo fare vedere che è vero. E poi ce l'ho fatta alla fine, piano piano, infatti mi ha detto, ma non una mano, già ti vedo difficoltà e cose, no. E proprio questa fobia che c'ho è una cosa più forte di me. Ecco, lui a me secondo me mi è successo da una volta che quando eravamo ragazzi c'era in costruzione un palazzo, c'erano delle montagne di sabbia che usavano per fare cemento e cose per la costruzione, montagne altissime di sabbia, e questi amici qui si buttavano dal primo piano, si buttavano in queste montagne di sabbia, si tuffavano. E io non mi volevo più fare, questa ricorda da dietro mi ha spinto e mi ha fatto scendere per forza. Non mi sono fatto nulla, però ho preso uno spavento, che sono stato col batticuore e roba di mezz'ora, col cuore che c'è una tachicardia mia. Adesso così è brutto, eh. No, vabbè, diciamo, di quelli spaventi, diciamo, di non è che sono quelli che si cattano nello grattacielo a piedi, con un piede, tipo, quando fanno vedere quella televisione in cui gli indiani che sono specializzati, però, diciamo, già me ne ha guardato, già sono salito in posti pericolosi, ma molte volte che poi quando ti guardi su, dici, cazzo, no, ho esagerato. No, io, nelle alture no. Ma anche in aereo, un po' di tensione ce l'ho quando vado in aereo. No, va bene. Io ero capitato delle persone che a fianco a me pregando, cacchio, pregando la morte, c'era la morte, di non morire, ho visto perché un giorno siamo andati a atterrare, dovevamo atterrare a Fertiglia, c'erano di quelle giornate tipo oggi, quei venti forti di maestrale, ma fortissimo il non è potuto atterrare, ha provato un paio di volte, ha detto no, purtroppo il vento è troppo forte e non si può atterrare, e si è dirottato verso Udia. Tu prima di arrivare a Udia ci sono tutti molti delle mare, lì è stato almeno un 4 ore 20 minuti cercando di trovare la calma di vento per atterrare, girando intorno. Alla fine sulla testa tra le denti, pregando in ginocchiata, aiuto, non vogliamo morire. Io dico, se devi morire già, non dipende da te, per cui io sono fatalista. A me una volta me l'ha fatto fare un da Pisa. Tornando da Pisa, ci hanno detto come di consueto, speriamo di luci per l'atterraggio, perché di notte, se volete potete accendere in cortesia. Stava atterrando, roba un po' di colpo risale, questo si sente questo rumore, tra, come se non scarrellasse il carrello. Un'attenzione che mi è venuta, però non è che ho pregato roba del genere, poi ha atterrato in maniera maldestra, ha bruciato un colpo, uno scossone che mi ha ripercorso sulla spiaggia. È presente quando tu vai in barca e si giri, prendi le onde e cadi di colpo, la stessa cosa. Somalia sono bravi più utile. La mia sorella quando era piccolina stava andando da Alghero a Lourdes in Francia e con mia madre erano già fuori da quota di coso, erano già in quota di, come si chiamano? Di quota di tangenza, loro la chiamano, sono esclusi gli oblò. Come si chiama? La pressione interna è stata, non hanno riuscito a compensare la cosa, è esploso, uno gli ha spaccato perforato il tipo, non hanno fatto l'atterraggio di emergenza, ma più è un caso che è successo, sa gente che si è sentita male. Ce l'ho proprio, ma ci voleva maschere di ossigeno, sì, ma a parte l'ossigeno, perché subito è sceso l'aereo, è riuscito a portare in coso di emergenza, in quota di emergenza dove riesce a respirare. Problema lo smalto termico, qualcuno gli ha spaccato i timpani, infatti dice tutti intontiti, c'era niente strillando, dice panico generale, che poi l'ossigeno è uscito di corpo, le mascherine escono automaticamente, ma dietro di voi quando sono arrivati, lui vede come li hanno trattati, dice quanti, tutti i gatti li hanno portati, curati, li hanno dato da mangiare, da, e proprio dice cercando un po' di calmare, perché c'era gente che voleva denunciare tutto, un sacco di cose, però alla fine uno dice era abbastanza grave, gli altri, mia sorella e mia madre già ce l'hanno cavata abbastanza bene. Magari che era più vicino al finestrino e aggrappato il timpani. Tanto non fa male quando si buca il timpano, mia moglie ne sa qualche cosa, che una volta che è caduto uno in acqua, c'era un leone, stavamo giocando a Plattavola, e questo qui ha buffato, poi è arrivato a quest'onda l'altra volta, è andato addosso, gli ha rotto il timpano, praticamente è uscito sangue da lì. A Paola? Allora. È caduta addosso, l'ho già sbandata addosso a mia moglie, lei è rimasta svenuta sott'acqua, meno male me ne sono accorto io. L'ho portata arriva, come l'ho vista sempre che li stavo uscendo, poi ci ho portato a aspettare il dottor soccorso. E c'è qualche palo bucato. Non ho mantenuto io, c'è qualche palo bucato, è un altro delle gocce per chiudersi, eccetera, eccetera. Davanti qualche sovrappopolamento. Vabbè, non ho capito niente già, ho letto l'ideco perché hai ripetuto troppe volte. Vediamo se c'è, magari ancora ci sono. Vabbè, stavamo parlando di formaggi. Quindi cosa consigli tu, di formaggio di pecora o di vacca? Quello di pecora rimane un po' più salato, così. Che cosa è più, quello di pecora o quello di cioè il pecorino o un altro formaggio? Poi quello di pecora la vacca è tipo dolce caldo, così. Quello con la crosta dura, tipo il parmigiano, non è fatto di quelli. Fanno quello da sciogliere nel fuoco, te lo dico io, e poi quello si indurisce e va bene anche a mangiare così. Basta, ma vuoi fare a lui. E quello, il parmigiano, tipo parmigiano, non fate voi il formaggio, sabato. E la mangiamo tutto. A me il parmigiano mi piace un bel. Ma ora anche il formaggio rosso, a me tutti i formaggi, qualunque tipo mi piacciono. Dalla gorgonzola fino ad arrivare al parmigiano, tutti li mangio i formaggi. L'unico che non mangio è quello che vuoi. Io invece la gruviera che non mi piace. E dalla me la gruffiera, io ti mangio tutto già. Gruffiera c'ha sapore schifoso, qua che no, a me mi piacciono i formaggi piccanti, dolci così, oppure il dolce di Mascomero, quello lì sì che mi piace, quello buono. Sì, no, sono tutta a me, ho detto. Parmigiano, io non mangio la pasta se non c'è il parmigiano, infatti tutti i formaggi, ma prima di tutto il parmigiano, grattugiato sulla pasta. Vabbè, c'è un negozio sotto casa che vende queste palette di funghi che sono favolosi, ma buone, baroma. Sì, no, così non parliamo di peretta, come ti sembra che si chiama il petto, la peretta, quello piccolino? Un gabiccio. Quella è la cosa più buona di tutti, che hanno mille ghisi, il petto più buono. Sì, ma rimane più salato. E l'altro forse è per quello che ti dava un coso di salato. È come io, che a me mi piace la codetta della gallina, ma quando tu compri le cuscie c'è quella codetta da carta. Ma mi piace. È una questione di gusto, per dire, nella mia del progetto mangio solo un gabbo. Non mangio altro perché non mi piace. La testa sì, ma il resto No, io carne, no, off limits per me, si posso mangiare il pollo arrosto, così, ma altri tipi di carne, no. Qualche volta, quando si entra all'allena, le fettine di cavallo, ma me le devo cucinare io, proprio devono essere sola di scappa, mangiarle al sangue, cose così, ma al centro le manca vedermi, agnello, idem, io posso mangiare un po' di pollo e basta. E cosa mangi invece? Sì, pesce in tutti i modi, ma lo mangio. Però carne, casa mia, quasi niente, mille bambine le facciamo un po' mia moglie, ma io carne non sono carnivoro. No, io sì, io tutto il contrario. A me tu buone mi arriusa e buone mi panzetta russa, rimani la panzetta russa e la riusa di darassa. No, assolutamente, anzi, molte volte preferiscono andare alle seminate, alle arrostite, proprio per non far brutte figure, perché io dico già in partenza, se mi dovete invitare, o mi cucinate salsiccione, cose così, o mangiare arrosto, cose così, se no mi trovo a disagio, là. Non ti piace più, invece Manuela chiede sempre se è cavallo la carne, mia figlia se è cavallo non la mangia. Ma cavallo io non lo mangio, proprio non ne guardo male, ma è capitato qualche volta, lo faccio fine, come piace a me, proprio ben cotto, ci metti un po' di sale, già te lo mangio questo. No, il cavallo vuole un po' grossetto, cotto tocco, fate i ferri, due girati e magnati, così non serve, fare sola di modi. Sì. E così a Roberto, ricucinendo la coscia di bolla a ruccio, ce ne rinviliti. Allora, sì, se no le facciamo il pesce. Perché non ti piace un bel sale, lo cacchio fatto al cartuccio, schifo ti fa. Lo mangio ma non mi attirano, né orate né sara, che nessun tipo di pesce mi attira, non mi piacciono i pesci, li mangio così ma non mi sa. Ma perché il gamberone arrosto schifo ti fa, dammi la passata di cozza e poi. I frutti di mare già mi piace. Ma se lo mangio un cacco. Il cacco se è buono già non mangio un buon cacco io. E tu mi rimangi due cacchi con la cannuccia. Già. Che calamari arrosto fritti non ti piace, o i polpi? Sì, polpi, calamari, frutti di mare, ma proprio il pesce. Io sono la stessa cosa, guarda Gianni, preciso ti dimentico. Guarda, a sette piacerebbe sono strappate. E lei così si sono parlati specialmente. Che tempo, un poco, da poi andremo a Chisciurruppi, ti la fanno una bella maglia del calamaro. Dove andate a prendere? Naturalmente. Grazie, se lui c'è, ma Roberto rimane strabiliato. Dove le mangiate, calamare? In un localino che conosciamo lui. No, ma prendiamo un piatto composto, ci sono calamari, ci sono fissi di mare, c'è insalata, verdura verde, c'è la macedonia, chissà quanto. Purtroppo quello dei calamari è difficilmente le trovi freschi. Vabbè, sono buoni comunque. Io ti dico che sono buoni, non altro. Altro qui via. Gianni. Tu hai mangiato il calamaro appena sotto l'acqua e poi il cucinato fritto. Tu non ti rendi conto della differenza del gusto di quello che era il giorno prima? L'ho mangiato sì, è dolce dolce, quando tu lo prendi così senti proprio il dolce del calamaro. Pierpaolo, avanti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, Natalino, Roberto, Falchetto, a Caneoto. Perché non lo so più a Gianni? Perché sono antipatico, perché vedete se si chiama due cacchi con la carrozzina. Comunque, ha parlato di cacchi, vi ricordate i cacchi quando lei entra all'interno ci avevano i semi? Avevano i semi? Tu non te li ricordi già i cacchi dentro che c'erano i semi, li aprivi e c'erano le forchette dentro e il cucchiaio ti usciva, il maschio e la femmina? Sì, sì, le linguette io le chiamavo. Le forchette e i coltelli noi li chiamavamo, non mi ricordo se le forchette erano le femmine e i coltelli erano i maschi. Vabbè, le chiamavo linguette, che sembrano linguette. A me non lasciate più, non li trovi più quel cacchio, quelli sono proprio i cacchi sardi di vecchia generazione, adesso è tutta roba di arriva alla vura, oppure quelli che trovi adesso sono trapiantati, sono molto più grandi, ma non hanno il gusto di quelli di una volta. Adesso è cacca, non sono cacca. Io ce li ho due alberi qua. Guarda, noi ce l'abbiamo in campagna nostra i cacchi, proprio quelli vecchi vecchi, solo che non li dobbiamo far maturare, che se no si rivulano, li dobbiamo togliere quando sono ancora arancione. Sì, ma infatti i cacchi maturi non si tolgono, perché ti rimane di mano. Ma noi dobbiamo togliere ancora i semi, proprio li devi tenere conservati e lasciarli qualche settimana e poi maturano. Però non è la stessa cosa farli maturare sull'albero. Vabbè, è una cosa diversa, sì. Poi c'è quelli legosi, a famiglia. Non lo so. Allora, però ne ho mangiato un paio, ma anche mio socio di campagna, sono veramente buoni, proprio, vabbè che rimangono quelli che non sono medicati, se rimane qualche pezzettino nero, l'hai visto, dalla buccia. Vabbè. Sono buoni quelli sardi, quelli piccoli, quelli che rimangono piccoli e dolci dolci, a me me li hanno portati da Rio la sarda, da poco. Erano veramente buoni, ma proprio dolci, dolci, dolci, piccolini ma buoni. E poi anche il colore di questo, hai visto, rimangono rossi rossi, non sono arancioni, rimangono proprio rosso scuro all'interno, bello, bello pieno, non c'ha quelle striature tipo scheletrato, che quelli rossi che compri nei supermercati, hai visto, rimangono tipo scheletrati. Guarda, la roba grossa è sempre quella che è coltivata con coso, con cibi chimici per farli crescere di più. Io qua ho parlato con contadini che si intende, c'hanno aziende addirittura di quelle che non medicano la roba biologica, prezzemolo, aglio, cioè quella roba lì ci ha portato sempre che cosa, perché la mandiamo agli asili noi. Gli asili ci hanno praticamente sono andati in Asia e cose, hanno detto che dovevamo prendere roba biologica per i bambini e noi abbiamo praticamente l'obbligo di testarli quello che li mandiamo che è biologico. Ogni volta li mandiamo il foglio. Sì, già lo so, è così. Naturalmente quello dipende da dove lo prende, anche un ingrediente va a fianco alla fogna, si usa per regare la fogna, vedi certi belli, per dire nella zona di Molaffa, hai visto che belli, lì ci sono belli alberi di arance, di pesche, di cose, te li, è tutto un bilanciere di fogna. Sì, perché la zona sotto alla Brittella non è così. Per appunti, Se facciamo girare, dai, riprendi Natalino, poi fai girare. Tu, buonasera, ben entrato. Buonasera, buona ruota. Un attimino che mi sistemo e riprendo subito. Stanco morto sono, altro che. Sì, è curioso, mi sa come si non fa nulla. E fa poco lo faccio, non devo uscire. Aspetta, mi sono salvato le bagagli, vediamo se c'è ancora. Avanti, salvato. Salvato, ci sei ancora. Di un'altra maglia, il Salvatore, non lo vedo niente. Quanto viaggio lo fa voi ragazzo? Se c'è da andare finisce di attacca le luci in continuo, fino a quando finisce non se ne va. Non ci aveva già aprire, vieni, d'estate. Dice, hai sentito quante volte mugge le pecore? Due volte al giorno. Purtroppo così, vabbè, tipo il lavoro, vabbè, tutto per casa sua, non è che lo fa per gli altri, è come te che lavori per la ditta di caccia. E lui lo stesso, c'hanno l'agriturismo, c'hanno la campagna, c'hanno le pecore, c'hanno bestiame. Ma col bestiame non hai fede già, non è che puoi dire, ci me ne vado 10 giorni in vacanza e laghi senza mangiare, senza mungerli, o senza portarli, senza tosare, eccetera, eccetera. Ma se non ti fai tu, guarda, io c'avevo tanti amici pastori nei paesi, ma è un lavoro di sacrificio, una cosa allucinante. Sì, lo so, io ho mio cognato che era allevatore sì, da poco tempo fa, poi ha mollato da quando c'è stata quella malattia della mucca pazza, c'erano vitelli, mucche, eccetera, eccetera, trattore, terreni, ha mollato tutto, è andato alla regione a lavorare, è stato con questo, era segretario particolare di un assessore, è andato nel suo partito, e viaggiava da Cagliari a Porto Torres, la fine settimana e basta. Poi mi dava una vacca di dinamica e lui me lo diceva sempre, la notte di Natale quel che pensavi l'hanno spaventate, le piste sono tutte scappate dal recinto e l'hanno avvisato e si è dovuto andare da casa, perché la casa si è dovuta andare per seguire i vitelli che erano scappati col trattore, col carrello, ha dovuto prendere il trattore, col carrello cercare, poi più ti avvicinava più si allontanavano loro. Un casino, è stato 2 giorni col padre cercando di prendere. Sì, sì, lo so, è una cosa di sacrificio, guarda, è una cosa, purtroppo, vabbè, ci sono tanti lavori, quello è uno di quelli più fastidiosi, diciamo, proprio che a qualunque ora del giorno o della notte dovresti essere disponibile, ti alzi la mattina a presto, rientri la sera tardi, se sei malato ci devi andare lo stesso, perché gli animali non li puoi lasciare da soli. Vabbè, loro ci avevano anche un ricambio, perché c'era anche il padre, non abitavano lì nella campagna dove avevano la casa, lì ma ci andavano solo l'estate, a passare l'estate. Allora la casa c'era un po' rottosa, c'era il padre, lo stesso che lui ha continuato, diciamo, l'attività del padre, si davano i campi, capito? Il padre va a bevere a sempre, e lui qualche volta mancava, però c'era il padre che ci pensava. Poi la notte, una notte gli hanno rubato sei vitelli che doveva andare a macellare, sei vitelli già pronti, allora gli hanno rubato il trattore, si erano caricati i vitelli, se li hanno portati via, qualcuno di vitelli è riuscito a saltare, ed è scappato e si è andato in mezzo alla mura. In mezzo alle campagne e coso, e gli altri l'hanno rubati. E adesso poi c'è questo fatto del furto del bestiame, cacca, di lì devi stare anche attento, cioè, rischia anche la vita, secondo dove capiti. Lo so. Poi gli hanno rubato anche il trattore, è stato 30 anni cercando il trattore, alla fine l'ha trovato senza batteria, gli hanno rubato la carrello, gli hanno rubato attrezzi che ci aveva, un sacco di roba, insomma un bel di danno, alla fine si è scoglionato, ha preso e è andato a lavorare da un'altra parte, adesso vede le case, mi fa, come si chiama, come si dice, baraglia? Agente immobiliare. Volevo far vedere a lui, l'altra volta parla di quella agricola che lo conosci, ha detto, ehi, tu quale tu sei detto, lo sta facendo l'agente immobiliare, no, sempre mobili sta vendendo. Vabbè, che fa? Ma fa faticare le risate già. Aspetta che ti faccio una riposa, ma riposo, riprendete, riprendete. E beh, devi fare due chili posto, no, perfetto, là. Però aiuta, aiuta, parlate, parlate, ragazzi, io devo parlare, c'è lui e Roberto. Ah, Antonio. Ciao, perché? Non ti avevo sentito. Sì, perché stavo facendo l'orecchio riporto, capito? L'orecchio riporto. Facciamo tenere la tua banda laterale. Allora. Ieri non c'eri, qualche. No, ieri mi ha fatto lo solo, boh, no, non ho parlato nulla, nulla, nulla. Proprio me l'ha fatta il solo, lo stanco molto, come oggi sono più stanco di ieri. Sei stanco, dai, ho capito. Anche sono molto stanco stasera. E vabbè, questo apparecchio qui serve anche per rilassarsi, l'uomo. Chi è che ha parlato quando sto parlando di... No. Ho detto, questo apparecchio qui serve anche per rilassarsi, o no? Sì, sì, quello è vero, quello è vero. No, non sei stanco già, c'è poco di apparecchiare. Ma tu ci fai? Sì, grazie, siamo in un aereo. Vabbè, diciamo... Molte volte è murato di quando piove non travaglia. Perfetto, e lui ci aveva caricato due chiavi di ghiaino e due chiavi di sabbia sotto l'acqua. Sì, scherza. Però per volta, avanti Natalino. Anche il ribaltabile non funzionava. Prima la roba è entrata dentro la sabbia. Ah, vabbè, ma loro hanno ribaltato lì, se ne sono andati. Naturale, no? Loro hanno ribaltato, però dovevi trattare tutta la sabbia dentro. Adesso c'è da dire che voi i muratori siete agevolati. Io mi ricordo a mio nonno era muratore, e io ho delle fotografie di mio nonno, te le vedi con le scale, con il legno, a luce del piano, attendimi, con queste cose, con le casarelle sopra la spalla, i sacchi del cemento, a impastare, che se vi vedi, non c'è il materiale che c'è adesso, diciamo col tempo già qualche miglioramento già l'avete avuto. E capa, diciamo che prima c'erano le caldaie di ferro, adesso ce l'abbiamo di plastica, ma il contenuto che sta dentro è quello del peso, capito? Ma vera betoniera, vera gru, vero montacare, che c'è, come si chiama, il tavolo pronto, eccetera, eccetera. Prima tutte queste cose non esistevano, 30 anni, 40 anni fa. Perché si trattava il suo guantanamo, glielo credo, era più dura prima, là. Beh, ho visto un cantiere a Firenze che c'aveva le così punteggi, al centro del punteggio c'era l'ascensore che stava sparando. Non lo so, adesso fanno veloci. Non hai visto quei punteggi telescopici che ti alzano, ti abbassano, ti fanno la facciata in due giorni. Viene con un gambo, ti apri fino al monteggio, neanche se poi piazzato sollevano e si fanno tutta la cosa, la facciata in un paio di giorni. Sì, sì, ne ho visto anche uno girarsi da quel camion lì. Allora, il produttore di uno di quel camion doveva fare il restauro di un tetto. Ha messo i piedi, allora, ha messo le ruote sul marciapiede, perché se no non passavano le macchine. E i piedi, quelli esterni, quelli della parte sinistra, li ha messi sulla strada, là al fatto, quando stavano praticamente lavorando, il camion si è girato, sono dovuti arrivare i tuoi piedi per andare in strada. Vanno ancorati bene, con le strutture ricche che sono in equilibrio instabile, se non metti una bella base sotto, cacchio, è perché Bruno non li ha mai visto cadere su. Si è girato dalla voce che ha colto a me, non l'ha capito di avere le fasciate, si è girato dalla parte del tetto. Non verso la strada, ma perché ho visto dove state verso il palazzo di fronte? No, si è girato verso la parte del tetto dell'altezza che teneva il camion, perché sennò se no dovete vedere i vigili del fuoco con due camion per tirarlo su. Ed era anche affittato questo camion, l'impresa l'aveva affittato per fare questi lavori. Ormai è tutto per il noleggio, difficilmente, a meno che non siano imprese molto grosse che affittano i mezzi, perché sono un sacco di soldi, fanno in tempo, fanno prima cosa a affittarlo da questi scandellari, questi di 5, gente così che riescono magari con qualche centinaio di euro, non c'è bisogno di comprare per un mezzo nuovo. Beh certo. Infatti le chiedono a chi fa, chi costruiscono i soldi, non ci perdono nulla, no? La batteria. Di capa. E così. Sassarino! Sì, dai, per me è venuto la vostra vicina, mi ha sentito respirare, ci sentiamo le frusti, le salutoni a tutti quelli che sono qua, in diretta, a quelli che ascoltano, io me la faccio un po' di più, ciao a tutti. Ciao Natalia, caro Gero, è finito, buona, buona noce. No, voglio sentire adesso chi è che fa il saluto più carino la sera. Buonasera a tutti, amici. Ieri stavo facendo le radioamatori, c'era questo tipo anziano, sicuramente una voce, che ha fatto un discorso prima di iniziare. Buonasera a tutti gli amici della Radio Parigi. Era un discorso quando fai la cosa alla messa, mentre diamo la predica. Dove le faccio delle labbra? Ma qualche volta quando uno saluta e fa un bel coso, aspetta un attimino quando fai tutto il discorso di chiusura, poi dice un attimino per il, come si chiama, mi viene la parola? Passaggio finale. Così parlo, io dico un ascolto finalino, tutti quanti, poi dice di nuovo, saluto a tutti, cordialità, un abbraccio a tutti, 73, dalla famiglia, al babbo, alla nonna, alla cugina. E ti piace così? No, non è che mi piace, ma è che piace molte volte quando senti una persona educata che ti fa, cioè ti saluta tutti indistintamente, cioè ti fa anche, fa piacere anche molte volte che entriamo tutti sgarbati, e beh, ciao a tutti, arrangiati, pigliatevi là in quel posto, molte volte lo facciamo per dire, però quando senti una persona anche di una certa età, che raramente sentiamo, e qua anzianotti purtroppo non ce ne sono più, almeno non è, cioè, fa sempre piacere sentire. Piace solo, insomma, Gio Maria, Mario Mao, tutti quelli non sono già persone di una certa età. Sì, ma non li sentiamo quasi mai, quando c'era Samuele, noi Samuele, quando si chiama Emanuele, quelli un po' più anziani, che entravano, cioè faccio sentire le persone che sono una vita infrequenta, che fa anche... Cioè, a me mi fa piacere, dai. E anche non fa piacere, io li ho tutti conosciuti da quando ero bambino, quelle persone lì, da quando cominciavo a modulare, dai. 14 anni, 15 anni, Mario Mao lo conosco. È sempre un piacere sentire persone che hanno fatto la studia alla radio, cioè qua a Sassari, che ci sono là 30 anni, per non dire più, forse anche di più di 30 anni ci saranno quelli, no? Se mi sono pulito, tra l'altro, loro ci saranno minimo 40. Non me lo faccio salutare, ma Natalino. Buonasera Natalino, ci sentiamo tutte le prossime domani. Ciao. Ci sta ascoltando, tanto ci sta ascoltando, dice che chiude e poi ci ascolta. Ma è giusto che sia così. Cavagava. Roberto, è così. Ci sono comunque, c'è anche Coso, Lula Rossa, che so, vabbè, sta tardo poco, però c'è anche lui c'è l'antenna, tutto quanto ancora. Ce ne sono tanta che musulano, che non c'è una certa istanza. E poi l'altro che non ho più sentito, l'ho sentito raramente anni fa, Passero, per il culo. E era l'amatore quello lì adesso. Sì, sì, lo so, era l'amatore, ma ogni tanto entrava, quando c'erano Gio Maria, quelli diciamo più anzianotti, qualche volta l'avevo sentito. No, con Passero poche volte ci siamo sentiti, poche volte. Ma con Mario ci conosciamo molto bene. Mario chi? Mario Mao. Ma aspetta, chi è quello che è entrato, lo stesso anziano, che credo che sia anziano, e l'ho sentito qualche mese fa, però non l'ho più sentito, che era tanto tempo che non entrava, lo stesso amico di Gio Maria. E non c'era Luna Rossa. Luna Rossa, questo? Ma forse non era lui, mi pare che c'aveva un altro nome qui. Era la croce, era sempre fa vedere di arrostite, di seminate. No, forse tu stai dicendo la cosa, ma chi? Graziano, forse stai dicendo. Forse lo fai Graziano. Graziano, un buffo stai dicendo. Dai, già. E c'è una voce, c'è di una persona anziana, non so più quanti anni ha. È un po' sguaiata e forte la voce. È un pochettino. Sì, è lui allora. detto che così qua, no? Già è lui, proprio sapere di inciarli, dai, di voce. Sembra che gridi, dai. Dove c'è il microfono che ho più ficcato un poi non ho più sentito a Giulio, mi dispiace, infatti sono una persona molto educata, diciamo, piacevole ascoltare. Ma a Giulio non è stato non lo sapete come prima. Non so, come vuole questi giorni, che non c'è mai tempo, ci faccio, che devo chiedere anche cosa, per salutarlo. Cavagare. Vabbè, forse non la tira più come prima, non lo so. Non lo so, molte volte è buono, eppure anche la Puglia, molte volte che dice accendi, magari lui si sta ascoltando in questo momento e poi magari ti dice non mi piace l'argomento, poi magari in altri momenti che si trova tutta la giornata, un sabato, una domenica in casa, schiaccia, magari non c'è nessuno al giorno, come è capitato anche a me qualche volta, che schiaccia e Puglia per dire c'è tutta la giornata libera, la mattina, schiaccia e non veni su. Capita tutti, io la mattina per dire adesso non sei benissimo che non posso fare nulla, sono a casa, accendo, perché capisci non senso, non ve manisci, a meno che tu accendi presto, allora senti a Pierpaolo, senti a Massimiliano, senti a cosa, a Falchetto, ma devi cedere alle linee di Vanzana. E' qui Vanzana, eravamo due sogni, insomma. Che tu alle 4 e un quarto è già sui? Non è alle 4 e un quarto. Accende, vanno e comunicati gli autisti, però Falche. Sì, vanno e comunicati. E per dire, ci vulcano, dice, se senti a quello lì di e ci troviamo per dire al rifornitore di cose, lui glielo dice, capito, non fa il piacere così, e ascolta gli autisti. Ah, fatta parola, allora. Io ho detto che si alza presto, non si riesce a dormire. Niente, proprio... Dovrà soffrire insonni a fare. Allora, voi dovete andare presto la mattina per parlare. Ci sono tutti i cagnolini a voi a parlare. Allora, come se va a andare? Allora... Come moglieremo i cubici a essere vissuta? Beh, inizio a dormire, così mi chiudono subito. Che addirittura no, le faremo ma non vuole voce, lo sai come si sentono, basta che ti svegli appena senti quello che c'è, senti la catena subito la senti, male che verrà attacca a casa tua, cioè che ce l'hai dentro casa tua. E allora dovevamo mettere un po' l'attino, non so se sono un comunque qua le mamma non beh, perché sono le pareti alte e i rumori si sentono tutto. Gaffa e vabbè quando è così allora non viene risultato. Sono una parte abbastanza distante adesso che c'è il corridoio in mezzo, a porta, però quando va bene io li sento, loro sicuramente sentono a me, figurati se mi dovessi mettere alle 4 del mattino a parlare. Vabbè, no, a me fa piacere, tanto non più giorno, andate a trovare a Chino, intendo a cosa di Pone, a Vulcano, e a cosa a Mario, poi per Domenico che è stato entrato da Urbia, capito? E si parla anche che la tira così, capito? Ma perché tanto non siamo presto, il Vulcano, quelli lì, iniziano loro a lavorare presto? Non lo penso, è tu che quando sto parlando io, già Gigi Vulcano sta facendo la terra sua, che sono 4 e mezzo. L'altro che sta lì a Predanieta alle 5.04 già chiamando a Vulcano, poi c'è Mario, poi c'è Domenico che scende da Olbia, da Pizzola, e un po' di gente c'è. Domenico quello McLaren, quello lì c'è. E poi c'è tutto. Quello è stato il primo che ha portato i baracchini con quelli simulatori particolari e con l'Ecco, è proprio una radio micidiale a Verna. Micidiale sì. Tuttora ce l'ho micidiale la radio. Allora, proprio... Oh, micidiale! Ma se che va? Omicidiale sono! Ma sei tu? No, ma anche un omicidiale, sto vendendo. Ma che è quello che ha Luca? Ma si sentiva lui da lontano, quando veniva verso lui? Ho capito, questo? Quando rientrava la Urbe, anche se lo sentivamo da lontano, ogni radio va via. Ma non è McLaren, Domenico non è McLaren, quello che viene da Urbia è Cosso, come si chiama, Domenico, quello che conosciamo noi Luca, quello di Cagliari. No, no, no. Quello se c'è un Robert, guarda che ho preparato. Meccanico, non è detto meccanico, l'ha raccontato, è stato il primissimo che ne ha portato, poi è venuto Luigi Vulcano e tutti gli altri. Il primo che l'ha portato è lui, fatto dai siciliani. Ho sentito l'altro giorno dopo tanto tempo, stavo parlando proprio di quello, me l'ha detto lui proprio, mi ha confermato, dice che è stato uno dei primissimi, quelli che non si capivano dove, come erano modificati, perché erano tutti pieni di roba, di verniciati sopra, dentro, all'interno dei componenti. Ma schiuma li metti. Sì, comunque è stato, quanto capito io volevo dire prima, da averlo qua, con la sassa. Esce quella di Gabbo, c'è anche su Facebook. Ma poi si fa sentire, non so cosa utilizzi poi di dietro, cosa c'abbia, ma vabbè, ogni segnalone. No, su Facebook, amici, attento Lugariello, cava, mi senti qua? E su Facebook, come lo cerchi, Domenico McLaren? No, ma lo trovo, già. E l'altro, tu ricordi quello che ho quello che ho stesso, che sentivamo per Monaco per l'altra, la Gianni Piccirillo. Sì. E adesso ultimamente non l'ho più sentito, c'era Pisolo. Pisolo che e veniva, passavo lì giorno qua a Sassa. E non l'ho più sentito, no, verso un po' l'ottobre se sempre. Giovane. Eia. Oh, mi ascolti con questo apparecchio. Prova a fare un passaggio lungo. 1-2-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1. Ha fatto una specie di scorreggino lì. Mancata la modulazione. Adesso è bassa bassa. Adesso c'è anche 40 canali, lo sì. Kappa. cosa è servito? Cusci è da 40 lì da uno dopo l'altro, l'altro. E io 40 così? Sì, tutti e 40. Visto, io glielo ho detto a Massimiliano da tanto tempo di farlo, dove c'è Tantarino, diceva che se andavano a salsa. E può succedere comunque. Ma è mio, io mi ricordo nell'FM500S che avevo fatti a salti, non andavo, ne me li segnava più che 40 canali, dipende. A me me l'ha fatto quell'autista continentale, Giuseppe, quello che viene da Modena, me l'ha fatto vedere lui come si faceva. Va bene, ma già, le volte succede, perché ne ha due di Alessia, se spacchi una ti spacchi la seconda, vanno tutti per aria. Sì, vabbè, è questione di gamma. Io ho visto che no, lui gli ha fatto fare uno scatto solo, ha preso la pinta, l'ha messo su 34, ha messo uno straccetto per non graffiarlo, ha preso la pinta, basta. E adesso proviamo, gli ha fatti vedere tutti i segnati, i canali da 1 a 40, poi quando li ho provati andavano bene. Sì, ma c'è una cosa, quando vai alla potenza devi dare un colpo secco. E devi calibrarlo bene, perché sono una vicino all'altra quella rete. Se spacchi anche l'altra, si è fregato. Poi vanno tutti quanti, ma con gli altri li riconosci più, Con l'altro. Perché questa rete qua vanno nell'ingranaggio, a un certo punto bloccano, poi capito? Solo che dopo gira su se stessa la manopola, continua a andare, capito? Non è che devi tornare indietro, continua sempre a andare. Poi voi la chiamate Aletta, ma non è una Aletta, in pratica ci caccia, non sai che cosa è. Ti ricordi i pallini dei cuscinetti, quelli piccolini? Lo devi far andare fuori sede. Secondo come gli dai il corpo, fai andare tutti e due fuori sede. Vabbè, io non l'ho mai aperta, non lo so, lui ha mai toccato di Aletta di plastica. Probabilmente quello lì era diverso. C'erano due letti di plastica, ha detto la spaccavi, questa la spaccavi e una andava bene. Ha dato un colpo solo ed è andato di lusso secco. Poi se c'è fortuna ti scende anche, magari ci ha potuto dare via. Se non c'è fortuna ti si può anche inceppare in mezzo, è un casino. Io ne sono consapevole di quello che ti sto dicendo. Ne ho smontato più di uno. E uno ce l'ho anche davanti, se tu lo vuoi vedere, io te lo faccio vedere. Tutti quelli che le chiamano a lei, tu le mandi da me, però se devono scommettere lo stipendio di un anno con me. Ma magari essere un apparecchio diverso per bacio, uno magari c'ha un sistema, un altro che un altro, non è che sia. Ma comunque si è sentito come la spaccata, perché si è sentito anche proprio il rumore di plastica. Allora, cosa vuoi, Intec? Intec, che io te lo dimostro, vuoi questo qua, è il 48, cosa vuoi, dimmelo, ce l'ho tutti e due, io. Non lo so, comunque io non li ho mai visti, non posso insistere, a me mi ha detto che erano delle alette di plastica, poi non so cosa ci sia detto, io non li ho mai visti, non ti posso dire sì, è così o non è così, non lo so. E io ti dico che non sono alette. Dico che non sono rete, ne sono sicuro di quello che sto dicendo. No, le chiamano rete, no, perché evidentemente che non lo sanno, non l'hanno mai aperto quello lì. Io invece li ho aperti e non so che cosa è. Vabbè, ma il discorso non era quello, non era se la pallina o la lente. Il discorso era come sbloccarla. E in effetti lui a me me l'ha sbloccato e me l'ha fatto 40 canali, mi ha fatto piacere perché era 34 e quando andavano su 40 non ci potevo andare in mani. Ma lì non è che sia... E quello lì aveva abbinato pure un bel di roba, ma non parato. Ha comprato un paio di roba, anche il 5,50 l'ho venuto a lui. Diciamo che si potrebbe fare un lavoro più pulito senza spaccare niente, che ci puoi cambiare il quarto, così qua sai che c'hanno un quarto. Ti cambi il quarto e va fino a 40. Ma aspetta, ma il commutatore è bloccato? No, se tu cambi il quarto ti cambia tutta la sezione di canale. Ah. così. Non lo sapevo, vabbè, il quarto sapevo che c'era, però che cambiando il quarto, non lo sapevo, mi sapevo che tu busta, invece così, lavoro, ti ho pagato tutti. Io ho pagato tu busta, qui c'è un altro di metodo, quindi se riesci a trovare uno di il commutatore, no? Quello del cambiare il canale, come si diceva mezzo voi, un commutatore poi. Se riesci a trovare il commutatore del 40 canale, te lo dà lo stesso poi il 40. In effetti te li dà lo stesso il 40, ci sono tre modi di farlo, spaccando quello proprio, oppure cambiandoci il quarto o cambiando il commutatore. Ma gli altri tre modi sono dispendiosi, invece quello lì là è più, diciamo, più veloce, più meno dispendioso. Beh, spendere 12 euro, no? Già, aiuto. Se devo risparmiare non è lì. A me mi è andato sempre bene quella parecchia di troppo, ho messo quel microfono che ti ho spiegato come me l'avevo fatto, andava un burro, era tutto in base mi tendiano in voce, ma non manco come si trattava, era l'originale. No, comunque, qualche rispetto adesso, all'interno del codice ci sono queste lamelle che girano attorno a questi pallini, ci sono, mi pare, sono 4 e 4, 8 e 2 in pratica da una parte quando tu giri il commutatore, in pratica vanno a fare 2 per volta, vanno a fare su queste lamelle, vanno a fare la posizione del canale, capito? Come bisogna vederlo aperto. E funziona così, capito? Uno di questi ultimi va a battere su una specie di scanalatura e deve far saltare quella scanalatura che c'è in più e allora il pallino, l'ottavo pallino va a toccare su fino al 40, capito? Il primo, mi pare che sia il primo e il terzo pallino. E vabbè, è tutta una prassi, dai. Ma aprirlo si può aprire, si può smontare. Si può smontare, ma una volta che l'hai aperto, già, una volta che l'hai aperto non riesci più a ricomporlo, è un casino, non riesci più a ricomporlo. Perché se non vedi aperto, di cazzo, di volte vai, è difficile, cioè lo apri perché magari è guasto, io ce l'ho due guasti qua e l'ho aperti per quello, so come hanno il funzionamento. E sono per quello, ma se devo aprire per riparare, lascia perdere. Se ne cagli dei pallini, no, ma pure una volta aperto, è difficile da richiudere, capito? Lo devi smetto a spaccare, dai. È un bel casino, dai, capito. Oh, yeah. Oh, oggi sono tornato all'infortunio. E beh, tutto bene. Mi ha toccato anche la mano, mi ha detto vabbè dai, ci vediamo il 23, adesso vediamo, se c'è qualcosa da fare, deve partire, ho detto no, non devo fare niente. Dice vabbè, allora ci vediamo il 23, così ci facciamo gli auguri. Sono per quello, vabbè, io perché non gli ho detto, se vuoi ti mando un biglietto d'auguri. No, era per strafotte e ti avesse effetti di tutto. Amici, già amici, ma carità. Secondo me sono al lavoro così stronzo questo qua. Boh, non è possibile che non sia tutta la vita così. Magari il loro mestiere. Ma la farina non c'è più. No, è andata a nata. Così presto. Come si è detto che le tue cose le finite? Forse era il momento che stavo attaccando la radio. Gabadana. Non fa più la radio. Questo l'ho attaccato col suo, non esce niente. Con il microfono, col mio, col Midland l'ho attaccato già. Esce bene, esce fottici. Quello suo, se vuoi, l'attacco te lo faccio sentire, è una zanzara. Vuoi sentire? Prova. E ci può far avere questo microfono? No, esce bene quella apparatura. A voglia. Guarda a vedere. Tutta una sua cosa. Questo? Nulla, no. Ma io l'ho sentito col portatile, no? Non può fare. sparo, però ho visto che sto parlando, cosa ha fatto, guarda. No, che l'ha fatto, come se fossi parlando dentro un bicchiere, così. Nasina è una brutta, invece è molto chiusa con la modulazione, invece l'altra è proprio aperta, bella limpida. Già mi sono un'andata. Ma sicuramente io va per forza di soffrare, neanche lo altro, mamma mia. Correggiato con la radio. Ma la bella radio vera adesso non va più bene. Guarda, questa è migliore. Lo sento che la qua è migliore. Quell'effetto presenza è un'altra cosa, è più forte, c'è un effetto presenza proprio al 100%. Tu pensa che io stavo pensando che avessi l'apparato con l'eco abbassato, capito? E ti ho detto, non sento la coda dell'eco, e tu mi hai detto, io pensavo che stessi usando l'apparecchio tuo con l'eco tutto abbassato. No, è il 68 questo. E comunque già va bene, adesso va tutto bene, tutto regolato. Tutto a posto, cazzo, è sposato, diciamo che è uscito benino. Adesso domani sera probabilmente gli do una breggiata, perché come è stato verniciato, fa l'ascamo, se lo vedi metti la mano in testa e fuggi correndo. Ma ragazzi, una cosa di bacione. Quello tu te lo sai te. No, negativo, gli ho tutto messo a posto e Massimiliano non riesce a fare questi trimmer, deve venire a poco, tutto mi lo dove devi aprirlo tutto totalmente, devi fare appetti per sostituire questi trimmer, togliere le mascherine, svoltarlo dietro, non è una cosa facile così, no, e che devo fare attenzione, chi no, chi secondo cosa tocchi, ciao. E che trimmer hanno toccato tra? Ma sì, trimmer, il potenziometro mette in parlo. Ah, pensavo che avessero toccato i trimmer e dovevi risistemare, ma... E vabbè, quando si può, favore si fa, cava. E io mi pare che quel microfono che ho glielo attacchiamo al coso che fa, al mitra, e me lo uso in macchina. Quale microfono? Statiche. La statiche? Ma quello non è amplificato? Sì. Vuoi trattare l'altro disapparecchio? Nel Mitra, nella 48 che c'è in macchina, no, in macchina di mia moglie lo metto. Ah, infatti pensavo che lo volevo mettere, nel 48 l'avevi fatto, perché non si può mettere. Già lo so, sì, vabbè, ci mettono le BB più 5, se si potrebbe mettere anche quello esce un po' forte. Dove, su quello modificato? No, esce forte già di per sé con il microfono. Ah, sì. Oh, strada. Se tu con la 48 non vuoi toccare neanche un trimmer io, se no gli diamo una passata di caccia a vite e vedi come esce col microfono normale. Con questo tu lo devi provare, vedrai come esce. 48 lì è originale, un peccato per... È un peccato. E vabbè, adesso vediamo, magari anche l'RC si può aprire, l'RC, giusto l'RC per crescere un po' più forte. Ah, guarda, si può toccare, non è niente di particolare, non è che si tocca né, c'è qualcosa, gli apri la modulazione, basta. E guarda, non so cos'è, mezzo giro, lo vedi come esce, questo io l'ho portato tutto quanto, a parte che vabbè, anche questo trimmer comunque era tutto sedato, tutto quanto pulito e porta a porto con attenzione, con il coso a punta, piccolino, piano piano, e l'ho rimesso tutto a posto, in senso, se no è valido il tipo, si tratta soltanto che devi toccare quello lì e basta, mica devi toccare altro, non fa niente. Sì, dopo, magari, un momento che c'è il tempo lo facciamo.